Sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, il cuore un po' di pace troverà. Estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e al cuore un po' di pace troverà. Ooh.